Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e a tutti buon inizio settimana, anche se non lo è per la verità per i mercati finanziari. Poi vi racconterò cosa sta succedendo in questa giornata che ha aperto con il segno meno e tornano ancora di nuovo le preoccupazioni non solo sulla Grecia ma anche sulla Spagna. Fra un po' lo vedremo insieme. Cosa invece affrontiamo oggi, quale argomento? Parliamo appunto di giovani che stanno completando la loro formazione per entrare nel mercato del lavoro. Abbiamo spesso parlato di università a Salva Danaio per capire che tipo di investimento rappresenta per le famiglie italiane, un investimento di tempo, non solo di denaro. Ancor di più lo è il master, un passo ulteriore che permette di specializzarsi investendo altri anni e spesso diverse migliaia di euro nella speranza di garantirsi un trampolino di lancio e un contatto concreto con il mondo del lavoro. Sono tanti master che stanno partendo in Italia, che riguarderanno il prossimo anno accademico, più di 2000, la maggior parte nell'area sanitaria, medicina, farmacia, psicologia, ma sono in crescita anche i corsi nell'area economica e in quella umanistica. E sono tante le variabili da prendere in considerazione in questa scelta, senz'altro strategica. Il piano di studi, gli effettivi sbocchi, la possibilità di uno stage in azienda, l'opportunità di frequentare un corso all'estero. E poi c'è l'aspetto economico, da cui non si può sicuramente prescindere, gioie e dolori per le famiglie. Oltre alle possibilità di sgravi fiscali, alcuni di questi corsi possono rivelarsi molto, troppo dispendiosi per una famiglia, per cui la scelta va fatta in maniera davvero, davvero attenta. Ma è possibile mettersi alla ricerca anche di una borsa di studio o di un prestito sperando di veder premiato il proprio merito anche con un aiuto monetario. Ce ne occupiamo questa mattina a Salva Danaio in corrispondenza con l'uscita della guida ai master in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Naturalmente su tutto questo noi come sempre vorremmo confrontarci con voi. Se volete chiamarci, siamo disponibili come sempre all'800 24 00 24, è il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta. La domanda che vi facciamo oggi è se state ovviamente prendendo in considerazione la scelta di un master per i vostri figli, ma anche per voi, perché ce ne sono tanti sul mercato, anche per chi già è nel mondo del lavoro ma vuole migliorare la propria formazione professionale. Allora anche in questo senso, quali dubbi avete, quali curiosità, avete frequentato uno di questi corsi in passato, siete stati contenti di questa scelta fatta per voi o per i vostri figli, oppure l'investimento non è stato poi proficuo come credevate in termini di risultati? Chi è con noi questa mattina? La collega delle Sole 24 Ore, tra le varie curatrici di questo master che, siccome è molto articolato, ha richiesto molte firme, molte penne, Francesca Barbieri. Buongiorno, ciao Francesca, bentornata. Buongiorno a tutti. Poi salutiamo il professor Andrea Stella, presidente della commissione didattica del CUN, il Consiglio Universitario Nazionale, oltre che direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale all'Università di Padova, dove presiede proprio la commissione master. Professor Stella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E siccome i temi fiscali sono sempre molto importanti e vanno chiariti ai nostri ascoltatori, abbiamo anche stamattina disturbato il nostro Luca De Stefani, esperto in temi fiscali per il Sole 24 Ore. De Stefani, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oltre al numero verde, come sempre faccio un po' la lista della spesa, come tutte le mattine ai nostri ascoltatori che hanno bisogno di sapere tutte le modalità che hanno a disposizione per poter interagire con noi. Oltre al numero verde, appunto, potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche ad esprimere i vostri commenti sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Vi avevo già preannunciato che l'apertura della settimana per la borsa è negativa, ci sono tanti fattori che pesano e allora pesano soprattutto su Milano e sulla Spagna, che sono i peggiori indici europei. Tanto per cambiare, la Spagna sta perdendo quasi 2 punti, Milano meno 1,67, Parigi meno 1,28, Francoforte meno 0,7, Londra meno 0,59%. Cosa preoccupa il mercato stamattina? Allora intanto qualcuno è convinto che la Spagna, dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche per chiedere gli aiuti per il proprio sistema bancario e abbia necessità di ricapitalizzarsi essa stessa, per cui questa è un po' il vento che tira stamattina in borsa. E poi la Grecia potrebbe aver bisogno di altri soldi rispetto a quelli già concordati con la Troica. C'è un rapporto preliminare dei funzionari del Fondo Monetario, dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea. Questo rapporto preliminare, secondo le indiscrezioni riportate stamattina da Der Spiegel online, sembra che avrebbe divulgato questa indiscrezione, secondo la quale c'è un deficit nei conti pubblici greci pari a 20 miliardi di euro, ovvero quasi il doppio di quanto previsto in precedenza. Su tutto questo è arrivato anche l'IFO tedesco, l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche, che a settembre è sceso per il quinto mese consecutivo e si è collocato ai livelli più bassi da 2 anni e mezzo a questa parte, per cui anche la Germania comincia naturalmente ad attirare su di sé le negatività della congiuntura economica e di conseguenza stamattina tutto questo porta al ribasso le borse. I peggiori titoli di Piazza Affari, abbiamo i peggiori Mediaset meno 5, UbiBanca meno 3,64, Finmeccanica meno 3,41, meno 3 per STM, Monte dei Paschi per la Popolare di Emilia Romagna e per Eni. Il segno più invece sull'Ottomatica di Assorine, che guadagnano un punto circa in saldo, più 0,7%. Lo spread fra BTP e Bund, naturalmente per non saperne leggere né scrivere, ha ripreso a salire stamattina a 354 punti base. Questa è la borsa, ma la borsa adesso la lasciamo, andiamo ad un altro tipo di investimento, non quello sui mercati azionari, ma su un altro tipo di investimento che le famiglie fanno, quello sull'istruzione per i propri figli, e dopo l'università oggi parliamo di master. Ben 2021. Tanti i master che si attiveranno negli atenei italiani per l'anno accademico 2012-2013. Un'offerta senza dubbio ampia, anche se lievemente inferiore a quella dell'anno scorso, quando i corsi proposti erano stati 2068. Quella di proseguire gli studi dopo la laurea, specializzandosi in un settore specifico, è una scelta strategica e delicata, da valutare con molta attenzione. Il master è un ulteriore investimento di tempo e di denaro, un passo da inserire in un percorso più ampio che tenga conto degli anni di studio già completati e, quando ci sono, delle prime esperienze lavorative vissute annotate nel curriculum. Nella maggior parte dei casi è proprio il master ad avvicinare al mondo del lavoro, comprendendo nell'offerta formativa uno stage e quindi un primo contatto con un'azienda attiva nel settore in cui ci si vuole specializzare. Un'altra possibilità da prendere in considerazione è quella di frequentare un corso all'estero, opportunità che garantisce sicuramente di accedere ad una gamma più ampia e internazionale di possibilità lavorative. Certo, per iscriversi a un master servono migliaia di euro. Bisogna poterselo permettere, oppure riuscire ad ottenere una borsa di studio o un prestito. Non è un'impresa impossibile, ma bisogna saper cercare ed avere un curriculum meritevole. Sia per la ricerca di possibilità di finanziamento che per la scelta del master in sé, un buon punto di partenza è in ogni caso la rete. Su internet è possibile consultare tutti i piani di studio dei corsi proposti dalle università e dagli enti di formazione, valutando le opportunità di stage e facendo i conti con l'obiettivo finale, che non va mai perso di vista: le effettive possibilità di trovare un trampolino di lancio per la propria professione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande e i vostri interventi in diretta. Potete confrontarvi con noi questa mattina su questo argomento che vedo già ha attirato molti ascoltatori, papà e mamme che ci stanno chiamando, ma anche professionisti che si sono cimentati in queste avventure di ampliamento dei loro orizzonti professionali, appunto migliorando la propria preparazione, e quindi anche questi ci stanno scrivendo e adesso li sentiremo. Prima però, come sempre, il biglietto, la visita della guida che esce questa mattina con il Sole 24 Ore, Francesca Barbieri, bella ampia rispetto al solito, non ha la modalità delle guide del lunedì che danno l'opportunità di scrivere direttamente ai lettori per ricevere poi delle risposte. No, non c'è il forum online, però c'è una, diciamo, una parte online che arricchisce la guida cartacea e quindi, diciamo, c'è un'ampia proposta nei confronti dei lettori interessati a iscriversi a un master. Certo, quali sono allora i temi che affrontate? Sì, ecco, questa guida, che è costituita da 12 pagine, quindi è molto più ampia rispetto alle guide normali che facciamo, è rivolta sia a chi si è appena laureato e vuole investire ancora nella propria formazione, sia a chi ha già qualche anno di esperienza alle spalle e vuole migliorare la propria posizione lavorativa. E in queste 12 pagine i lettori trovano la mappa delle novità per ogni area disciplinare, con le indicazioni degli esperti del mondo del lavoro e le esperienze degli ex allievi, ma anche le classifiche internazionali dei corsi migliori e i suggerimenti per chi vuole andare all'estero. Ci sono poi informazioni sulle borse di studio, sui prestiti e sulle detrazioni fiscali. Mm-hmm. Diciamo che l'obiettivo finale è individuare quali sono le specializzazioni più spendibili sul mercato del lavoro. Ecco, tra l'altro proprio andando a caccia di queste specializzazioni più spendibili sul mercato del lavoro, che si è mosso anche poi l'offerta universitaria, certo, degli ultimi anni, che, certo, ha ridotto un po', anche se 2000 ci sembrano tanti, sì, effettivamente. Sì, sono sempre tanti, ma negli anni passati erano anche di più. Diciamo che c'è stata una razionalizzazione dell'offerta formativa, anche le università si sono impegnate per andare ad individuare quali sono i corsi effettivamente utili per chi li frequenta, per chi arriva a conseguire il titolo di studio e proprio per trovare lavoro. Certo. Professor Stella, a Padova quanti ne proponete? A Padova sono circa una cinquantina, mm-hmm, i corsi di master tra primo e secondo livello. E quali sono i più gettonati dagli studenti? Ma in gran parte i corsi sono dell'area medica e dell'area psicologica. I più gettonati sono appunto quelli di area medica, ma anche quelli di economia, che hanno una forza notevole. Inoltre abbiamo alcuni corsi internazionali di grandissimo interesse e grandissimo successo. Per esempio abbiamo uno che vede molti atenei europei, che è un corso sugli Human Rights and Democratization, che è estremamente interessante ed è molto, molto qualificato. Ne abbiamo altri internazionali che vedono gli studenti muoversi tra Padova, Parigi e in altre città, e quindi è un corso un po' itinerante. E anche questa di grandissimo successo e qualificazione. Ecco, spiegavamo all'inizio della trasmissione, pochi minuti fa, professor Stella, che a partire dal prossimo anno accademico saranno circa 2000, qualcosa in più, i master che saranno offerti appunto dal panorama universitario italiano. Questi hanno subito una razionalizzazione che probabilmente sarà stata necessaria per chiaramente adeguarsi anche alle esigenze nuove del mondo del lavoro. Ecco, che tipo di strade sono state seguite per razionalizzare questa offerta? Ce la può spiegare? Sì, allora uno dei punti fondamentali per i master è che si tratta di corsi che gli atenei gestiscono in maniera autonoma, vale a dire non devono essere approvati dal ministero, valutati dal CUN, sono approvati dall'ateneo e quindi è fondamentale che sia l'ateneo stesso a darsi una autoregolamentazione per garantire la qualità dei propri corsi. Quali sono gli strumenti usati a Padova? Essenzialmente sono due. C'è una valutazione molto attenta della commissione master di Ateneo che va a vedere i risultati anche degli anni precedenti e poi da un paio di anni abbiamo avviato anche l'indagine da parte del consorzio Alma Laurea, che è di grande interesse, ho visto che anche nel supplemento di oggi Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati di queste indagini. Sì. Sì, ed è interessante perché è uno strumento fondamentale per capire qual è la rispondenza di questi corsi. Ci sono due momenti di valutazione, c'è la valutazione della soddisfazione dei corsisti e poi a un anno di distanza la valutazione degli sbocchi occupazionali, degli esiti occupazionali, e quindi questi sono strumenti in mano all'ateneo per capire dove i corsi sono interessanti e dove non lo sono. Un altro strumento fondamentale è il numero degli iscritti, cioè se un corso è molto gettonato, se un corso ha un numero di iscritti simile al numero massimo previsto o addirittura che lo supera, allora evidentemente è un corso che ha una buona reputazione, altrimenti se ha difficoltà a raggiungere il numero minimo, allora c'è qualche problema e la cosa va valutata con attenzione. Certamente, allora entreremo naturalmente nel corso della trasmissione ad esplorare tutti questi aspetti, io però volevo partire subito con alcune testimonianze, ce n'era una che ho voluto subito, che appunto il mio assistente Marco Lombardo cercasse di metterci in contatto con questo ascoltatore, perché si tratta di Lorenzo da Milano, che è un po' grandicello. Lorenzo comunque ha super giù la mia età, per cui siamo ragazzi per sempre, come dico io, ma Lorenzo vuole raccontarci che dopo la laurea ha fatto anche il master, forse l'ha fatto in tempi recenti. Lorenzo, con che tipo di risultati ci vuole raccontare? Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Sì, io mi sono iscritto all'università a 40 anni e quindi ho fatto da non frequentante e sono contentissimo di quello che ho fatto. Mi limito a segnalare che da adulti, ho fatto poi anche il master, sì, ho proseguito, da adulti diventa difficile questa cosa, perché poi con la crisi che c'è in questo momento sto cercando lavoro e mentre cerco quello che so fare, quello per cui ho un'esperienza decennale, eccetera, eccetera, che comunque non è semplice, io non riesco ad accedere a posizioni cosiddette di basso livello, cioè non posso andare a fare il magazziniere. È diventato iperqualificato, Lorenzo. Ecco. Esatto. Sì, sì, quelle agenzie non ti chiamano nemmeno. Una volta una persona addirittura, di fronte al fatto che mi proponeva fare il magazziniere notturno per un contratto di 3 mesi, mi ha detto: lei non è affidabile perché l'azienda investirebbe su di lei e se lei fra 2 mesi trova di meglio va via. Certo, cosa che peraltro è un'obiezione che non si può sicuramente contestare, Lorenzo. Ma ci racconta in che cosa si è laureato, che master ha fatto e che tipo di lavoro cerca adesso? Allora, io ho fatto una triennale in storia moderna e contemporanea e una specialistica in scienze politiche alla Statale di Milano. Si può dire sicuramente il master, cioè, il nome del master non lo diciamo. E adesso io sono un compratore, ho un'esperienza di più di 10 anni di acquisto sia in Europa che soprattutto sul mercato cinese. Ho un'esperienza diretta, sono stato sul mercato cinese, conosco i fornitori, il modo di lavorare loro. Quindi effettivamente per fare il magazziniere Senta Lorenzo, siccome noi parliamo anche di denaro in questa trasmissione, soprattutto quanto le è costato tutto questo investimento su se stesso in questi anni? Parecchio. Quello universitario alla fine è quello che mi è costato di meno. Non saprei farle i conti. Il master? Assolutamente. Il master mi è costato 6.000 euro. Ha potuto fare le detrazioni previste? Sì, ho detratto tutto. Ovviamente non i libri, soprattutto l'università, detrai le rette, ma i libri... È anche vero che per me è stato da quel punto di vista più facile, perché comunque lavoravo, non avevo grossi problemi di tipo economico, quindi mi sono anche permesso il lusso di comprare i libri quasi tutti nuovi. Certo. Potrei dire tutti, ecco, arrotondiamo a tutti che tanto va benissimo. Lorenzo, grazie per la sua testimonianza, adesso ci dobbiamo fermare. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata, adesso sentiremo anche Silvio da Chieti, che invece ha investito su suo figlio, esperienze diverse naturalmente, fino al punto di diventare super qualificati e sentirsi respinti dalle aziende anche per questo motivo. Vi presentiamo la guida in edicola con il Sole 24 Ore. Oggi la guida si occupa di master, quindi di quella formazione professionale post università che viene scelta da molti studenti, ma anche da molti lavoratori che sono già entrati nel mercato del lavoro, ma magari cercano di adeguarsi ai cambiamenti di questo e quindi cercano di migliorare anche la propria condizione professionale. Stiamo cercando di capire intanto qual è l'offerta del mondo universitario, ma anche del mondo privato in Italia, perché i master non possono essere fatti solo ed esclusivamente nell'università. Per esempio c'è il Sole 24 Ore che ne offre una, adesso non era una pubblicità ma mi è venuto in mente perché vediamo tanti ragazzi che frequentano anche il nostro palazzo abitualmente, soprattutto durante l'inverno, e tante altre grandi aziende appunto. E proprio su questo mi volevo soffermare con Luca De Stefani, il nostro esperto fiscale, prendendo anche a spunto la testimonianza dell'ascoltatore che abbiamo ascoltato appunto all'inizio trasmissione, un lavoratore che ci raccontava tutto il percorso che ha fatto, ha scelto di frequentare peraltro l'università dopo i 40 anni e fare anche successivamente un master, e gli ho chiesto se poteva detrarre appunto tutte le spese dalla propria dichiarazione dei redditi, visto che era anche uno studente lavoratore. E da quello che capisco anche dai pezzi scritti sul Sole questa mattina, De Stefani, per chi lavora naturalmente può usufruire, frequentando questi corsi, di un maggior risparmio d'imposta rispetto invece alle famiglie che finanziano i figli. Allora, abbiamo una detrazione che è del 19% sull'importo pagato, e sicuramente anche i master rientrano tra queste spese agevolate. C'è una risoluzione del 2000 che prevede questo. Oltre ai master ci sono agevolati anche i corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitario. Gli sconti fiscali poi sono anche sugli affitti per gli universitari, se l'università è ad una distanza superiore ai 100 km dal luogo di residenza dello studente. Quindi anche in questo caso abbiamo una detrazione pari al 19% dell'importo del canone di affitto che abbiamo sostenuto. No, stavo guardando appunto l'aspetto, dicevo prima, della differenza fra famiglie che finanziano i figli e liberi professionisti, perché chiaramente o comunque lavoratori autonomi, anche lavoratori dipendenti, lavorando naturalmente possono fare direttamente la detrazione fiscale della propria dichiarazione dei redditi. Certamente, se hanno la partita IVA come impresa o come professionista, se questa spesa è inerente, ad esempio sono un consulente aziendale e faccio l'università per economia, oppure sono un medico e faccio un corso di specializzazione in medicina o in chirurgia o in settori simili, ecco che sono spese inerenti e allora sono deducibili fiscalmente. Nell'ambito del reddito d'impresa sono deducibili al 100%, mentre purtroppo per i professionisti sono deducibili solamente al 50%. Ecco, però da quello che capisco bisogna fare anche la differenza fondamentale tra i corsi offerti dall'università e i corsi offerti invece dalle società private, perché se si sceglie di frequentare un master appunto proposto da una società privata, in questo caso non è possibile invece utilizzare detrazioni. Esatto, le detrazioni per la persona fisica non sono possibili, perché la persona fisica può detrarre solamente le tasse e i contributi per l'istruzione secondaria, universitaria, anche post-universitaria, però di scuole o università statali o private e comunque in ambito universitario. Se invece un corso di formazione non riconosciuto dall'ordinamento scolastico e quindi anche determinati master fatti, magari proposti ai professionisti chiamati master, ma che non sono riconosciuti dall'ordinamento scolastico italiano, in questo caso l'unica strada è quella della deduzione nell'ambito della partita IVA. Professor Stella, volevo ritornare con lei per commentare anche in questo caso di nuovo la situazione che ci ha raccontato l'ascoltatore precedente, che ci ha detto di aver fatto questo corso di laurea triennale in beni culturali, adesso non mi ricordo bene, comunque in storia dell'arte o qualcosa del genere, per poi scegliere invece un master che avesse un indirizzo completamente diverso. Anche il Sole 24 Ore questa mattina si sofferma a lungo sul fatto che magari a seguito della laurea si sceglie come master di fare un approfondimento in un terreno completamente diverso rispetto a quello precedente. Secondo lei è utile una scelta di questo tipo? Non lo so, laurearsi in lettere per poi fare un master in economia, oppure è bene come dire, approfondire il corso di laurea già concluso? Guardi, il signor Lorenzo mi pare che abbia detto che non solo avrà seguito un master in materia diversa, ma il suo percorso formativo della laurea e laurea specialistica è stato di tipo articolato, nel senso che si è laureato in storia moderna e poi la laurea specialistica l'ha fatta in scienze politiche, quindi già lì sì, aveva scelto una strada diversa, ma questa è la logica della nuova struttura dell'università. In tutta Europa, in tutto il mondo è un po' così, cioè col processo di Bologna, separando la laurea dalla laurea magistrale, noi abbiamo la possibilità di articolare e di riorientare le nostre esigenze. E una volta uno sceglieva una laurea e terminava dopo 5 anni al minimo, o anche di più, invece con la possibilità di scegliere percorsi diversi uno può meglio mirare agli obiettivi, e questo ovviamente vale anche poi per il master. Uno può benissimo seguire un tipo di laurea e dopo andare a scegliersi un master diverso, perché i criteri di accesso sono più flessibili per i master rispetto alle lauree, e quindi questo è un fatto certamente positivo. Ecco, poi bisogna, il signor Lorenzo non è un caso tanto inusuale, lui si è laureato cominciando l'università tardi, a 40 anni, e questo è un fatto certamente importante. Bisogna tenere presente che i master universitari in realtà hanno due diverse tipologie. Fondamentalmente ormai si pensa che i corsi di studio di laurea e laurea magistrale diano gli strumenti metodologici e di base, mentre la formazione più indirizzata al mondo del lavoro si è ottenuta attraverso dei corsi più mirati a questo, come sono appunto i master, che si collocano perciò o all'inizio, subito dopo la laurea, in modo da entrare nel mondo del lavoro attraverso una formazione mirata, oppure come strumenti dell'apprendimento permanente. L'apprendimento permanente vuol dire che dopo anni si torna a studiare, perché questo è fondamentale oggi, dove abbiamo la tecnologia che avanza molto velocemente, le metodiche anche mediche che cambiano, e quindi non è più pensabile oggi avere una formazione che si limita alla laurea o alla laurea magistrale. Bisogna, ecco, tornare a studiare. Questo è vero, però ha anche sentito quello che è successo all'ascoltatore nel momento in cui, è chiaro, lui è andato magari per così gestire al meglio un particolare periodo della sua vita che magari poteva essere sicuramente limitato, però quando un'azienda ti dice che sei iperqualificato per il tipo di mansione che questa azienda offre, non, anche dal punto di vista, come dire, accademico, professor Stella, non ci si sente un po' frustrati? Cerchiamo di preparare al meglio i nostri ragazzi, cerchiamo di fare in modo che siano pronti a tutte le esigenze, anche quelle nuove appunto delle aziende, e poi arriviamo lì e siamo anche fin troppo preparati. Non c'è dubbio, ma questo è un problema dell'Italia, questo, perché bisogna pensare che l'Italia ha un numero di laureati molto modesto rispetto al resto dell'Europa, e questo vuol dire che generalmente rischiamo di avere una sottoqualificazione generale, e quindi la capacità di innovazione, di crescita è molto legata alla capacità dei singoli, delle persone di fare impresa, di innovare, quindi questo rischia di essere un grosso problema. Il mercato è poco disposto in effetti ad accogliere i nostri laureati, che spesso devono trovare strade diverse, andare all'estero, ma questo è un problema da risolvere. Anche per quanto riguarda l'apprendimento permanente, cioè i master o gli altri corsi di perfezionamento, specializzazione, l'Italia è molto in arretrato. Pensi che soltanto il 6% degli adulti in Italia, gli adulti intesi come popolazione compresa tra i 25 e i 64 anni, ha seguito dei corsi di questo tipo per l'apprendimento permanente, mentre la media europea è 10%. Mm. Quindi anche su questo noi siamo in arretrato, non solo sui laureati, ma anche su coloro che rinnovano la loro conoscenza. È vero, è anche vero che qualche volta le aziende non aiutano molto, perché magari io immagino quei lavoratori che vorrebbero anche seguire dei percorsi come le richiama di apprendimento permanente, ma magari non ti danno dei permessi, non sono molto elastiche le aziende anche, no, nel così investire sul proprio professionista, sulla persona della quale si avvale appunto in questo senso. Allora io vorrei sentire adesso Silvio Dacchieti, perché da un bel po' che ce l'abbiamo in attesa, poi commenteremo anche il suo caso. Abbiamo anche Fabrizio da Cagliari, però Silvio, iniziamo con lei. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Allora, io parlo della mia esperienza da genitore. Io ho un figlio dell'85, lui Università di Perugia, i primi 3 anni, compresa anche l'Erasmus in Olanda, poi il master in giornalismo alla scuola lì di Perugia, e oggi è un vostro collega, lavora alla redazione. Lui in 5 anni ha fatto un po' tutto, ha preso anche la seconda laurea, per cui è stato un investimento, e oggi sono orgoglioso di aver investito. Per cui il mio consiglio che posso dare alle famiglie è di investire però su operazioni mirate, dove se un ragazzo ha tutti i requisiti, che possa essere un giovane talento, sarebbe opportuno investire in quella direzione. Certo, quindi magari assecondare anche in maniera intelligente le vocazioni e le richieste dei propri figli, perché anche quella è un'altra operazione che non è sempre facile, perché magari uno sostiene di avere la voglia di intraprendere un certo percorso professionale, poi non è detto che si abbiano le qualità. In questo caso stavo pensando appunto che ha scelto Perugia, il figlio di Silvio, credo che lì ci sia la scuola di formazione giornalistica della RAI, ed è effettivamente un serbatoio che la RAI utilizza proprio per appunto implementare le proprie risorse al suo interno. Ci sono tanti commenti anche sul tema di questa mattina sul nostro profilo Facebook, e c'è chi appunto commenta il caso che abbiamo sentito all'inizio sul fatto di prepararsi a 40 anni, fare dei master per poi sentirsi dire dalle aziende tu sei troppo preparato. Un'altra ascoltatrice, Valentina, invece solleva l'aspetto del denaro, dice il mondo dei master è diventato un business, ma mi chiedo, Valentina, quale non lo sia effettivamente. L'importante è che sia un business intelligente a beneficio dei nostri ragazzi. Professor Stella, prima di farle commentare il caso che abbiamo sentito prima, quello del figlio di Silvio Dacchieti, ci metto insieme anche Fabrizio da Cagliari, così li mettiamo insieme tutti e due, perché Fabrizio invece solleva un altro problema, quello dell'individuazione di un master serio piuttosto che buono, diciamo, per esprimere al meglio la propria vocazione anche. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Sì, salve. No, io rispetto a Silvio ho un'esperienza diametralmente opposta, nel senso che io ho fatto un master finanziato dall'ANAS, poi indetto materialmente dal Politecnico di Torino, e poi come sedi aveva proprio il Politecnico di Torino, lo UAS di Venezia e l'Università di Pescara, perché questo master teoricamente aveva l'idea di unificare tutta l'Italia come le strade unificavano l'Italia. È durato un anno questo master, è un master molto particolare in architettura della strada, ovvero sia l'idea che la strada non unisse solo un punto A o un punto B, ma poteva essere anche un metodo per veicolare una cultura, un paesaggio. Quindi l'idea che la strada potesse essere un qualcosa di più di un semplice nastro d'asfalto. E Dio solo sa quanto ne ha bisogno il nostro paese, esatto, peraltro, Fabrizio. Esatto. Ecco. Soprattutto per il turismo, perché comunque ci sono strade. Ma per le imprese, esatto. Guardi, io che faccio spesso la A14, non ne dico quante parolacce sempre a frequentare quell'autostrada che è lunga, è lunghissima, ma larga 2 corsie in tanti tratti e impedisce un tragitto, insomma, sereno. Comunque, detto questo, Fabrizio, com'è finita questa sua storia? Niente, che è cambiato il consiglio di amministrazione dell'ANAS, quindi tutti questi bei progetti di di questo studio che doveva rivedere i progetti che uscivano dall'ambito ANAS delle strade, appunto questa idea di questa nuova valutazione delle strade è morta ed è rimasta carta straccia. Quanto le è costato questo scherzetto, Fabrizio, in termini di tempo e denaro? Che, come si sente dall'accento, che siamo da Cagliari, e considerando che le sedi erano Torino, Venezia, Pescara e la discussione del master a Palermo, circa 25.000 Comodo. Euro. Quanto, mi scusi? Sui 25.000 euro tra costo di master e viaggi. Ma io non ci posso credere. Fabrizio, la ringrazio. Scriva una bella lettera a Francesca Barbieri, che magari la sottopone alla redazione e approfondisce anche questo caso. Professor Stella, appunto, come diceva Fabrizio, il mio caso è diametralmente opposto rispetto a quello rappresentato da questo papà, che peraltro è riuscito ad instradare molto bene suo figlio in un ambito professionale che adesso è molto difficile, all'interno del quale è molto difficile entrare adesso, il mondo del giornalismo, perché abbiamo molti ragazzi che sono appunto in uscita dalle scuole, dagli istituti di formazione, non li conosciamo abbastanza bene perché fanno molti stage anche da noi e purtroppo non riusciamo a trattenerli. Detto questo, appunto, cosa ne pensa di questi due casi? Sì, sono due casi molto diversi, bisogna dire che si guardano di solito i valori medi di quello che succede, ma ci possono essere casi molto, molto diametralmente diversi. Allora, intanto io mi richiamo a uno studio di qualche anno fa di Banca d'Italia, quando il governatore era Mario Draghi, e secondo questo studio l'investimento migliore in assoluto è quello in formazione superiore, è quello che dà il maggiore reddito nel tempo, e questo è un fatto molto importante. Poi però questo è un discorso medio, e ci sono dei casi più fortunati come quelli del signor Silvio e del figlio del signor Silvio, e casi molto meno fortunati. Allora qui si pone un altro problema, non è solo fortuna, bisogna essere molto attenti nella scelta. Effettivamente 25.000 euro per questo master sono davvero tanti. Ecco, ma professora Stella, io mi rendo conto che lei è rappresentante appunto del mondo accademico dell'università, ma siccome questo mondo però lo conosce molto bene, quello dei master in termini generali, se una persona vuole scegliere l'iniziativa privata, come fa ad individuare anche il canale giusto ad evitare che succeda quello che è accaduto appunto a Fabrizio, perché appunto oltre a tutto il tempo perso e ad aver vanificato completamente il suo investimento ha speso veramente tanto? Lei ha ricordato questa cifra che a me sembra veramente assurda. Sì, ma in effetti il master, così come l'ha presentato il signor Fabrizio, sembrava molto, molto appealing, molto interessante, perché un po' soddisfa i vari requisiti ai quali uno dovrebbe guardare prima di iscriversi. Quali sono questi requisiti? Che cos'è che uno deve guardare per capire se un master è qualificato o no? Allora, innanzitutto bisogna cominciare a vedere la struttura del master, il direttore del master, se è una persona conosciuta e nota, e del resto i curricula sono sempre reperibili in rete, ormai è facile vedere, e vedere quali sono i docenti, la loro qualificazione o scientifica o professionale, studiare i contenuti degli insegnamenti, che non devono essere ripetizione di quanto si fa nei corsi universitari usuali, devono essere mirati ad altre cose. E poi bisogna studiare, capire se alla progettazione hanno partecipato anche portatori di interesse del mondo del lavoro, delle professioni, delle pubbliche amministrazioni, perché in genere questi sono elementi molto, molto positivi. Un'azienda che collabora nella progettazione di un master è interessata anche ai risultati, e quindi tendenzialmente è disponibile anche ad assumere le persone che escono in maniera più brillante da quel master. E poi bisogna vedere se il master ha una storia. Se un master nasce un anno magari con una bella idea ma poi scompare, allora è un po' pericoloso. Se invece c'è una storia positiva, allora questo certamente è un fatto da valutare con grande quindi bisogna attenzione. È un mondo che bisogna iniziare ad esplorare non due settimane prima di iscriversi, ma almeno direi un anno prima, perché mi sembra un lavoro, un investimento altrettanto importante, quello dell'individuazione del master giusto. Noi stiamo andando verso la chiusura, metto l'ultima domanda, che è quella di Tommaso da Taranto, che mi promette sicuramente di essere telegrafico. Tommaso, buongiorno. Tommaso, ci sente? Tommaso neanche ci sente, sintetizzo io la sua domanda. La figlia lavora in una multinazionale, ha due lauree, chiede se può fare un master di primo livello di gestione. Professor Stella, ci aiuta a capire la differenza fra master di primo e secondo livello? È molto semplice, per la legge italiana è il requisito di accesso. Si può accedere a un master di primo livello se sa una laurea di primo livello, c'è cioè una laurea di 3 anni, e si può accedere a un master di secondo livello se si ha una laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento. Ecco, ad occhio, questa ragazza può fare il master di primo livello avendo due lauree? Senza dubbio. Ottimo. Allora, noi stiamo andando alla chiusura. Francesca Barbieri, la mappa completa dei corsi, c'è tutto questo nel dossier online del Sole 24 Ore. Sì, abbiamo un ricco dossier online all'indirizzo www.ilsole24ore.com/guida-master, dove è possibile accedere a una cartina geografica interattiva. Cliccando sulla provincia di interesse appaiono tutti i corsi di master con una serie di informazioni essenziali: la sede, la durata, il costo, il numero di posti disponibili, la data di scadenza delle iscrizioni e soprattutto i requisiti per poter partecipare alle selezioni. Molto bene, noi poi condividiamo sul nostro profilo Facebook anche l'indirizzo della mappa completa dei corsi della guida ai master. Grazie al professor Andrea Stella, Luca De Stefani, a Francesca Barbieri. Salva Danaio torna domani. Grazie a Marco Lombardo, Roby Scaltritti, a tutti da Deborah Rosciani. Buona giornata.